Chi è costui che arriva da Edom, da Bozra, con gli abiti di vivo colore? Magnifico nel suo ammanto che procede pieno di forza. Sono io che parlo con giustizia e sono grande nel salvare. Perché sono rosse le tue vesti ed i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino? La vasca l'ho pigiata da solo e dei popoli nessuno è stato con me. Li ho pigiati nella mia ira e li ho calpestati nel mio sdegno. Il loro sugo spruzzò le mie vesti e macchiai tutti i miei abiti. Poiché nel mio cuore vi è un giorno di vendetta ed è giunto l'anno della mia redenzione. Guardai e non v'era chi soccorresse. Osservai stupito, non v'era chi mi sostenesse. Allora il mio braccio mi salvò e la mia ira mi sostenne. Col mio sdegno calpestai i popoli, li annientai con la mia ira e feci scorrere per terra il loro sangue. Celebrerò i favori del Signore, le lodi del Signore per tutto quello che Egli ha fatto per noi. Egli è grande in bontà verso la casa di Israele. Ci ha favorito secondo la sua misericordia e secondo la grandezza delle sue grazie. Disse: veramente essi sono il mio popolo, figli che non deludono. E fu per loro un salvatore in tutte le loro tribolazioni. Non fu né un inviato né un angelo, ma la sua faccia che li salvò. Nel suo amore e nella sua clemenza, egli li riscattò, li sollevò e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi si ribellarono ed afflissero il suo Santo Spirito. Perciò egli si trasformò in nemico per essi. Egli stesso li combatté. Allora si ricordarono dei giorni passati, di Mosè, suo servitore. Dov'è colui che trasse dal mare il pastore del suo gregge? Dov'è colui che infuse il suo Santo Spirito? Colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che divise le acque al loro cospetto per farsi un nome eterno, che li condusse tra gli abissi come un cavallo nel deserto senza che inciampassero. Come armento che scende nella valle, lo Spirito del Signore li guidava. Così tu conducesti il tuo popolo per farti un nome glorioso. Mira dal cielo e vedi dalla tua santa e splendida dimora. Dov'è il tuo zelo e la tua potenza? Il fremito delle tue viscere e della tua misericordia verso di me è stato represso. Poiché tu sei il nostro padre, Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei il nostro padre. Da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché ci fai errare, Signore, fuori delle tue vie? Indurisci il nostro cuore, che così non ti teme. Ritorna per l'amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Perché gli empi calpestarono il tuo santuario e i nostri avversari profanarono la tua santa dimora. Siamo diventati da lungo tempo quelli sui quali tu non comandi, sui quali il tuo nome non è stato invocato.